Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e buon lunedì. Oggi occhi aperti sulla nostra pelle, chiara, scura, dorata, giovane, liscia, segnata, sensibile, resistente. Ne abbiamo una sola, quindi teniamola da conto. Come abbiamo detto tante volte, è il nostro vestito che cresce con noi, parla di noi. E questo è il momento dell'anno in cui è particolarmente loquace. Un po' perché noi, scoprendoci, le diamo più attenzione. Un po' perché in questo periodo dell'anno il sole la corteggia e lei ci racconta a modo suo le avventure e le disavventure di questa relazione. Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sol. Ma ce n'è una che prende la luna. Tintarella di luna, tintarella colorata. Ci sono tanti modi con cui possiamo prenderci cura della nostra pelle. Noi oggi giochiamo d'anticipo, parliamo di prevenzione e lo facciamo sia sul fronte della salute che su quello della bellezza. Allora oggi perlustreremo la nostra pelle palmo a palmo per controllare macchie e nei, e se voi ci date una mano fornendoci poche semplici indicazioni su come si comporta generalmente la vostra pelle al sole, vi diremo di che cosa ha bisogno per vivere questa relazione in sicurezza e bellezza. E dato che non c'è pelle senza nei e non c'è estate senza sole, e cresce in questo momento dell'anno la voglia di abbronzarsi, sono ammesse domande multiple. Potete ricevere notizie sui vostri nei, ma anche farvi consigliare la protezione giusta e la formulazione più adatta al vostro tipo di pelle, anche in funzione di quanto sole prendete, per quanto tempo e in che luogo. Che cane delizioso. Grazie. Macchie? Sì, è un dalmata. Ti ispira? Sì. Tesoro, parlami meglio di queste macchie. Io ho usato quelle di leopardo negli anni Ottanta. Ma le macchie dei dalmata sono un po' diverse, no? Cordiali. Calorose. Classe. Meno vistose. Esattamente. Ti piacciono le macchie, Frederick? Oh, non penso, madame. Credevo ci piacessero le strisce quest'anno. Oh, che razza di leccapiedi sei tu? Io comincio a vedere macchie. Di macchie di altro genere, ma sempre di macchie, di nei, parliamo oggi con il professor Antonino Di Pietro, direttore del servizio di dermatologia dell'ospedale di Inzago. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Professore, un neo per noi è una macchiolina, solitamente di color marrone scuro, ma ad osservarli con attenzione notiamo che non sono tutti uguali, possono essere piani, in rilievo, più o meno scuri, piccoli, più grandini. Alcuni sono presenti dalla nascita, altri invece compaiono e si modificano nel corso della vita. Chi deve guardarli con particolare attenzione, professore? Certo, dunque bisogna guardarli sempre, in ogni caso, ancora di più chi ne ha tanti, bisogna osservarli e vedere se sono regolari, nella loro forma, nel loro colore, rivolgersi allo specialista, che in questo caso è il dermatologo. Quindi se c'è qualche dubbio, perché un neo appare un po' più scuro, irregolare o ha cambiato forma negli ultimi tempi, allora bisogna andare dal dermatologo, il quale lo esaminerà con molta attenzione. Arrivo, lettino, l'acqua zigrinata dal ventarellino di maestrale, silenzio, uccellino. Arriva la mia moglie, una borsa 70x40, una bombola da sub arancione, col figliolo. Faccio, non prendere la bombola, guarda la piscina è bassa. No, è il tubo della crema solare. Tira fuori questa bombola, fa un'anguilla. Poi prende il figliolo, mette lì, girati, dopo mezz'ora era un pane di burro mio figlio, per guardare negli occhi così, io un'ora sotto il sole, fa, senti amore, me ne dai un goccino anche a me? Guarda che costa tanto. Era Paolo Migone. E di creme solari oggi parliamo col professor Umberto Borellini, cosmetologo e docente all'Università di Pavia e Tor Vergata, che è qua in studio con me. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a tutti. Non è facile scegliere la protezione giusta. Lei di che cosa ha bisogno per aiutarci a scegliere bene? Beh, io posso consigliarvi, ormai in tutti i prodotti, attenzione alle etichette, cioè tutto. Il segreto dei prodotti protettivi sta dentro la confezione del prodotto, per cui bisogna per forza inforcare gli occhiali e guardare bene le caratteristiche del prodotto, i vari tipi di protezione, insomma, è un discorso, diciamo, molto importante. Il comico giustamente ironizzava, ma c'era del vero in questa sorta di mania cosmetica di protezione. Quindi lei ci insegnerà a leggere i prodotti, le etichette. Giustamente ha detto, bisogna mettersi gli occhiali, perché tante volte sono scritti piccolissimi. Hanno dei nomi illeggibili, impronunciabili, non si capisce assolutamente nulla, però noi possiamo darle delle indicazioni su come la nostra pelle reagisce al sole. Certo, sono qui apposta. 800 24 00 24, abbiamo Maurizio che ci chiama già da Verona. Buongiorno Maurizio, benvenuto. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione ancora. Un'informazione, ho sempre avuto una, diciamo, colorazione della pelle omogenea. Ultimamente, con gli ultimi 2 anni, la colorazione viene dapprima a macchie, un po' più chiare, un po' più scure, e poi diventa tutta omogenea. Scolorando o scolorendo, ritorna a macchie. Cosa posso fare? Professor Di Pietro, alla parola macchie le passo subito la telefonata del nostro ascoltatore, perché le macchie in effetti sono antiestetiche, ma ad un dermatologo possono dire tante cose. Sì, certo, ma anche perché sono dei problemi più frequenti per noi dermatologi, chiaramente per i pazienti. In questo caso c'è una diversa distribuzione e anche produzione della melanina, ma questo può dipendere da molti fattori, anche ormonali, a volte anche legato a certi farmaci che si assumono, fatti metabolici. Diciamo che le cause possono essere svariate. Non durano sempre tutta la vita, ma abbiamo visto che questi fenomeni possono durare qualche anno, a volte 2, 3 o anche 5, 6 anni, per poi regolarizzarsi il tutto. Anche in questo caso una visita dermatologica può essere opportuna per cercare di capire la causa. Ancora di più in questo caso proteggersi soprattutto nei primi giorni con un'ottima crema protettiva che tra poco Borrellini ci illustrerà, al momento nulla. Un integratore potrebbe anche essere utile, a base di beta-carotene. Il beta-carotene si stratifica nei primi strati cutanei e diventa uno scudo in più per la penetrazione dei raggi ultravioletti. Allora, un mese prima dell'esposizione al sole, integratori a base di beta-carotene possono anche essere utili. Professor Borrellini, per le persone che hanno questa bronzatura a chiazze, lei che cosa consiglia? Sbaglia la protezione, si espone senza testa o che cosa può fare? Ma in effetti sono situazioni un po' particolari. Diciamo che per l'ascoltatore medio ci sono degli step chiaramente importantissimi, come Antonino, ciao Antonino, come il professor Di Pietro ha descritto prima, e quindi c'è una sorta di possibilità doppia. Dall'interno con questi integratori ricchi anche tra l'altro di vitamine e antiossidanti. Dal punto di vista invece della protezione cutanea bisogna giocare un po' di quasi a mosaico, quindi aumentare la protezione nelle zone iperpigmentate e diminuirla un po' nelle così altre. Si bilancia un po'. Poi ci sono alcune teorie, ad esempio si potrebbe consigliare prima delle esposizioni di fare questi blandi scrub, ovvero eliminare le cellule morte per rendere l'incarnato un po' più omogeneo. Ecco, questi sono, diciamo, suggerimenti che possono essere utili. Assolutamente. Professor Di Pietro, sole Enei, tra le raccomandazioni di voi dermatologi c'è quella di evitare le ustioni, perché la pelle, come sappiamo, non dimentica. I danni tra l'altro si pagano nel tempo e con gli interessi. Mi sembra che questo sia anche il messaggio che possiamo dare oggi, soprattutto invitando a quella che viene detta la tintarella selvaggia, no? Ma qual è esattamente il meccanismo che lega le radiazioni solari al melanoma? Insomma, come fanno? È il sole che fa variare, no? Diventare problematici i nostri nei, ne fa nascere degli altri, che relazione c'è? Il sole quando ci colpisce lo fa in due modi, con i raggi ultravioletti e con i raggi infrarossi. Allora, molto velocemente, i raggi ultravioletti sono come degli spilli che entrano nella nostra cute, arrivano nel cuore delle cellule, quindi il nucleo, e possono creare delle alterazioni, per cui le cellule che poi si riformano possono prendere una strada sbagliata. e dar luogo quindi a dei tumori cutanei, tra cui soprattutto il melanoma, che è quello più cattivo. I raggi termici, che sono gli infrarossi, quelli che ci surriscaldano, sì, anch'essi negli ultimi tempi, negli ultimi anni, sono stati messi sotto accusa, perché il surriscaldamento eccessivo porta ad una ebollizione dell'acqua e quindi dei liquidi che ci sono nella nostra pelle, e questi alterano il normale svolgimento della vita delle cellule, per cui ancora una volta queste cellule alterate possono dar vita a cellule anomale, che poi sono quelle tumorali. Quindi attenzione, cosa vuol dire? Proteggersi soprattutto dai raggi ultravioletti con le creme, ed evitare il surriscaldamento, quindi a volte anche stare sotto l'ombrellone per ore e sentire quel gran caldo potrebbe essere dannoso, e allora è sufficiente rinfrescarsi con delle docce frequenti o un spruzzino d'acqua da giardiniere. Ecco, quindi attenzione, le scottature sono eccessivamente pericolose, molto più che le abbronzature riuscite ad essere effettuate molto gradualmente. Le ustioni sono pericolosissime. Ma allora, che rapporto abbiamo noi con il sole? Andiamo a sentire. In generale, il 65% degli italiani ama il sole, sia dal punto di vista fisico, 65%, che psicologico, 67%. Il 68% degli italiani, 33,5 milioni, ama la tintarella, e il 65%, 32 milioni, dichiara che in generale è molto importante proteggersi dal sole. Nonostante ciò, il 39% degli italiani, si tratta di circa 19 milioni, non usa prodotti protettivi solari quando si espone volontariamente al sole. 9 milioni ne fanno un uso limitato ai primi giorni di esposizione. Risultato: 9 milioni di italiani si sono scottati negli ultimi 12 mesi. Eppure c'è una diffusa consapevolezza dei danni che il sole può provocare in generale alla pelle. Lo afferma il 95% degli intervistati, che equivale a dire 47 milioni di italiani. Quasi la metà del campione, 46%, e cioè 23 milioni, sostiene che alla sua pelle il sole non può provocare nessun problema. Circa 2 italiani su 3 si dichiarano informati su come proteggere la pelle dal sole. Di fatto il 39% di chi si espone al sole volontariamente non usa prodotti solari. Parliamo di circa 19 milioni di italiani. Inoltre, se da un lato il 61%, circa 30 milioni, dichiara di usare prodotti protettivi quando si espone al sole, dall'altro il 31% di chi si espone al sole, 9 milioni, ne fa un uso non corretto, limitato cioè ai primi giorni di esposizione. Questi sono alcuni dati emersi dalla ricerca Gli italiani e il sole, condotta da Eurisco, promossa dalla società Otermal Aven. L'indagine è stata condotta nel periodo 17-26 gennaio 2001 su un campione di 1000 soggetti rappresentativo per distribuzione geografica, sesso, età e titolo di studio della popolazione italiana dai 14 anni in su. Tina, buongiorno a lei da Bologna. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare una domanda. Siccome ho delle macchie rosse che sono sul... ne ho sempre, alcune le ho avute, ma poche. Non sono lisce proprio macchie, sono, come posso dire, un po' bombate. Sì, e un po' in rilievo. Mi stanno crescendo un po' in rilievo, sì. Tonde, e mi stanno crescendo, mi sto riempiendo praticamente, soprattutto sulla pancia, davanti, anche sulle gambe qualcuna. E poi ho naturalmente delle macchie nere, cioè marroni. Eh sì, questi. Professor Di Pietro, noi abbiamo detto i nei sono neri, marroni, marrone scuro. Queste macchioline in rilievo rosse appartengono alla famiglia dei nei o sono altro? Quasi sicuramente sono dei piccoli angiomi, cioè sono delle dilatazioni dei vasi capillari che formano queste formazioni rossicce, a volte color rubino, che sono pieni di sangue. Sì. Sono legate ad un indebolimento della parete dei vasi sanguigni cutanei, e nel corso della vita possono apparire di più o di meno a secondo del tipo di pelle. Ogni volta che si prende sole e ogni volta che ci si surriscalda, ancora una volta, arrivando più sangue in questi vasi sanguigni, è più facile che questi angiomi si formino. Nessun problema, non sono pericolosi, antiestetici, si possono eliminare col laser, e quindi la nostra ascoltatrice può star tranquilla. però attenzione ancora di più alle scottature in questo caso. Dottor Borellini, noi sappiamo che nei prodotti ci sono dei filtri fisici, dei filtri chimici. Ci spiega le differenze di questi due tipi di filtri? Sono sempre presenti? Bisogna dare la precedenza a uno, certo, all'altro? Alcuni ascoltatori mi scrivono che questi filtri chimici sono pericolosi per la pelle. Vogliamo sapere da lei, che è cosmetologo, qualche indicazione per vederci più chiaro. Certo, pericolosi direi assolutamente di no, anzi sono veramente benefici. E, esistono appunto i filtri chimici che assorbono l'energia dei raggi solari, si modificano e quindi con questo meccanismo proprio di tipo chimico modulano, mitigano l'attività dei raggi ultravioletti sulla pelle. E poi invece abbiamo gli schermi fisici. Questi chiaramente sono più potenti perché questi respingono, non modulano, respingono proprio i raggi solari. Sono delle sostanze di tipo minerale, quindi assolutamente ad attività estremamente superficiale. Sono talvolta considerati un po' antiestetici perché chiaramente sono un po' polverosi, ecco, sì. sono dei micropigmenti come l'ossido di zinco, il biossido di titanio, tra l'altro sostanze che danno anche un certo tipo di sicurezza perché sono poi gli ingredienti principali per le paste dei culetti dei bambini, quindi siamo proprio a livello basico. Quindi il filtro è quello che modula i raggi, lo schermo è quello proprio che fa rimbalzare, quindi quello più potente. In etichetta, quindi tornando al discorso di come gestire la cosa, esistono intanto da qualche anno l'obbligo di 4 macro categorie, sì, così al di là dei numeri, sì, che possono creare confusione, per cui la prima cosa da fare è verificare se il prodotto ha bassa, media, alta o massima protezione. Quindi già intanto ci sono queste 4 macro categorie. Il mio consiglio è di puntare sempre a una protezione veramente molto attenta i primi giorni di esposizione, dove ci sono gli UVB, i più eritematogeni, i più energetici, quelli che provano scottatura. Durante invece tutta l'estate è importante poi non dimenticarsi anche dei filtri UVA, che sono quelli che provocano il fotoinvecchiamento. Anche quindi, quando siamo abbronzati. Quindi. Anche quando siamo abbronzati. Invece, sono raggi subdoli, sono raggi un po'... Io li definisco rugogeni perché non danno quella legnata tipica dei primi giorni di esposizione dove uno diventa rosso come il gambero, però silenziosamente, andando più in profondità a livello del derma, possono modificare le fibre e quindi danno questi problemi di tipo anche estetico. Ma una domanda sorge spontanea ed è stata sollevata anche da alcuni nostri amici sul profilo Facebook. Se proteggiamo la pelle con creme, filtri, come facciamo a fare scorta di vitamina D, che sappiamo è la vitamina del sole, se così possiamo dire, è una vitamina che vanta numerose virtù? Qua abbiamo bisogno del professor Giuseppe Remuzzi. Buongiorno professore. Buongiorno. Le abbreviavo già il nome. Coordinatore delle ricerche per l'Istituto Mario Negri di Bergamo. Professore, se noi ci mettiamo queste creme e continuiamo a metterle durante tutta l'estate, che cosa succede? Possiamo avere dei problemi per la sintesi della vitamina D? Beh, la sintesi della vitamina D avviene attraverso la pelle. Noi assorbiamo attraverso la pelle l'energia del sole e lì c'è un precursore della vitamina D che deve essere trasformato proprio dall'energia solare per poi essere ulteriormente trasformato dal fegato e dal rene e diventare la vitamina D attiva. La vitamina D è un componente importantissimo della nostra vita e oggi tantissime malattie sembra che possano addirittura riconoscere nella carenza di vitamina D come minimo un fattore predisponente. Le creme solari certo proteggono dalle scottature, ma inibiscono la capacità di sintetizzare vitamina D. E quindi questo è un compromesso che bisogna trovare. Non dobbiamo mettere le creme per non scottarci, ma certamente se noi ci spalmiamo completamente di creme, perdiamo la cosa più importante che è quello che c'è dell'estate, il sole, che aiuta poi a passare un inverno tranquillo e a proteggerci da tante malattie proprio grazie alla vitamina D. E quindi il consiglio è usare la testa, esporsi nelle ore meno calde? Il consiglio, come sempre, il consiglio è il buon senso. All'inizio certamente è importante mettere queste creme per evitare le scottature. Poi io penso che al sole, se uno ci sta nelle ore più fresche, mettiamo dalle 11 del mattino fino alle 11 del mattino e dopo le 5 del pomeriggio, e sta sostanzialmente all'ombra nel resto del tempo, penso che riusciamo ad avere una massima attività di esposizione ai raggi che consenta di sintetizzare abbastanza vitamina D senza avere tutti i difetti delle rughe e di tutto quello che succede con un'esposizione eccessiva. Penso che la cosa più sbagliata sia quella di stare tantissimo tempo al sole nelle ore più calde e pieni di crema. Questa è probabilmente la cosa più sbagliata da fare. Professor Remuzzi, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Grazie, grazie a voi, buona giornata. Noi continuiamo ad occuparci della nostra pelle con i consigli dei nostri esperti. A proposito di consigli, come ogni giorno vi invito a visitare il nostro Daily Lab, il nostro laboratorio del benessere. Ogni giorno un consiglio di uno dei nostri esperti dedicato proprio a noi, per insegnarci a prenderci cura della nostra salute e del nostro benessere. www.radio24.it, andate sul Daily Lab e seguite le nostre istruzioni. Essere e benessere. Che tornavo da te, senza niente da dire, senza tante parole, ma con in mano un raggio di sole per te, che sei luna. Raggi di sole, Giovanni da Bari, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei fare una domanda, una curiosità più sì. che altro. Vorrei sapere, esiste una correlazione tra il crearsi del numero nuovo di neli? Cioè un bambino nasce con pochissimi neli, sì. Se lui sbagliasse un'alimentazione, uno stile di vita, esposizioni scorrette al sole, oppure tossicità di sostanze ambientali, quali plastica o cose eccetera, può far aumentare il numero della formazione dei neli, questo è quindi poi una ipotesi di un melanoma eventualmente, e quindi qualcosa che possa essere fatto per ridurre la formazione del numero dei neli? Professor Di Pietro, il fatto che sulla nostra pelle nascano dei nuovi nei è normale, perché noi nasciamo senza e poi a poco ci sono alcune persone che nascono proprio già con dei nei che si chiamano congeniti, ma poi nel corso della vita, nel corso degli anni, qualche neo dobbiamo metterlo in conto. Può dare delle indicazioni a Giovanni, preoccupato? Lui dice giustamente, ci sono delle cose da fare per evitare la formazione dei nei, dato che abbiamo capito che le persone più a rischio sono quelle che hanno tanti nei, più di, professore? Ah, quando sono diffusissimi, non c'è un numero ben preciso, e quando osservando il corpo si vede che c'è un numero importante di nei, non sono due o tre e basta, ma cominciano a essere magari 15, 20 o anche di più. Non c'è nessun legame tra il sole, l'alimentazione o altri fattori che possiamo ipotizzare e la nascita di nuovi nei. I nei nascono, noi nasciamo con tanti nei, alcuni di questi sono in superficie fin dalla nascita e quindi li vediamo, altri invece sono affondati nella pelle come delle boe che vengono tenute legate al fondo. Nel corso della vita poi affiorano e vengono in superficie. Non sappiamo ancora il perché. Ci sono dei soggetti che non prendono mai sole, sono sempre bianchi, hanno tantissimi nei, e altri invece che sono sempre abbronzati ma hanno pochi nei. Quindi non c'è un rapporto tra il sole e la comparsa di nuovi nei. Quindi non c'è risposta, ecco, la domanda che ha fatto questo ascoltatore, che è frequentissima perché molti pazienti fanno questa domanda, non si sa il perché, è un fatto diciamo congenito, costituzionale, c'è chi nasce predisposto e chi no ad avere tanti nei. Da che età è importante controllare i nei, professore? Beh, diciamo fin dalla nascita, ci sono alcuni nei che già dalla nascita possono avere particolari caratteristiche e devono essere tolti, perché si è visto che quando vengono asportati, dal punto di vista estologico, cioè guardandoli al microscopio, hanno delle anomalie, sì. E poiché li abbiamo tolti, poi non sappiamo se queste anomalie potevano magari evolvere in qualcosa di più brutto. In ogni caso, ogni volta che c'è un neo un po' strano, molto scuro, irregolare, al di là dell'età, va tolto. Dopo i 40 anni a maggior ragione. Abbiamo un approfondimento poi sulla nostra pagina, sulla pagina di Essere Benessere, su tutti gli strumenti diagnostici oggi a disposizione del dermatologo per vederci chiaro, a cura del professor Ignazio Stanganelli, che vi invito ad ascoltare nel caso steste per effettuare una visita dal dermatologo e voleste essere preparati. E io vado anzi resto a Milano, perché all'800 24 00 24 ci chiama Marco. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno, grazie. Ci racconti, Marco? Mi sentite? Sì, volevo solo chiedere se è vero che il numero che c'è scritto sulle creme solari, che c'è scritto protezione 25, 30, 40 e così via, corrisponde ai minuti garantiti di protezione dalla crema. Allora, grazie, la ringrazio molto Marco, perché professor Borellini, questa è una domanda che ritorna spesso e la faranno anche a lei i suoi studenti. Quando io leggo 25, 6, 50 più, che cosa devo pensare? Allora, innanzitutto si tratta di un numero che corrisponde al cosiddetto SPF, Sun Protection Factor, ed è un numero che ci fa capire quanto tempo ci vuole prima di scottarsi, prima di avere un problema di eritema. Quindi non è proprio legato ai minuti, chiaramente più alto il numero e maggiore è la protezione dalle scottature. In realtà diciamo che indica quanto l'applicazione di un prodotto solare può prolungare la sua attività rispetto alla pelle non trattata, per cui è un'indicazione, diciamo, precisa ma abbastanza vaga, più o meno per far capire che rispetto a non mettere niente un fattore 15 consente un'esposizione 15 volte maggiore. Ecco, questo diciamo in linea di massima, perché poi dopo, come dicevamo prima, vi sono altri 100 aspetti: il fototipo, il genotipo, dove stai prendendo il sole, su un prato, su una sabbia, cioè bisogna avere una laurea per proteggere la pelle, perché noi vogliamo proteggerla dalle ustioni, vogliamo sicuramente abbronzarci e soprattutto salvare la vitamina D. Molti di noi però, professore, lei lo sa bene, iniziano a fare i weekend al mare, vogliono tornare, non dico abbronzati ma un po' dorati, certo. Il tempo è poco, la voglia di sole è tanta, ci si ferma un pochino di più in spiaggia, insomma uno cerca di godere al massimo questo breve tempo di vacanza. Bisogna farlo con la testa, anche perché la melanina ha i suoi tempi. La melanina ha i suoi tempi, la pelle ha bisogno dei suoi tempi per abbronzarsi, poiché il pigmento nostro naturale, il nostro abbronzante naturale, che è la melanina, che abbronza perché è scura e protegge, necessita di qualche giorno per salire in superficie. La melanina viene prodotta negli strati più profondi dell'epidermide e necessita di una settantina di ore, due o tre giorni per maturare, che poi anche qui è relativo, perché ci sono poi quelli che non si abbronzano mai e si abbronzano subito. Poi se andiamo a vedere c'è la eumelanina, che è quella melanina buona, bella marroncina, nutellosa, nutellosa, e c'è la feomelanina, che invece è quella più, diciamo, non lo dica così, va bene, comunque diciamo pippi calze, ecco, pel di carota, c'è quella eumelanina nutellosa, no, poi è l'altra più rossastra, che chiaramente che protegge anche lei di meno. Il suo fascino, però assolutamente, no? Però chiaramente queste persone devono porre molta più attenzione rispetto ai nutellosi, di chiamiamoli. Io così. Sto rivalutando la pelle appena ambrata. Prima mi piacevano più, no, la tinta bella intensa e scura, invece anche il dorato. Dottoressa Pucci Romano, buongiorno a lei. Buongiorno a tutti, come state? Ciao Umberto. Noi siamo bene. Ciao. Quando ci sentiamo, la dottoressa Pucci Romano è dermatologa, vicepresidente di Skineco, è autrice con la dottoressa Gabriella Fabrocini di A tavola non si invecchia, in un libro a cui ha partecipato anche Lorella Cuccarini, ricette e consigli per una pelle giovane e sana, Giunti editore. Il primo che mi manderà una mail a esserebenessere@radio24.it riceverà a casa questo libro. Ma intanto alla dottoressa Romano io vorrei chiedere: noi spesso si dice che la protezione inizia a tavola, scegliendo gli alimenti giusti. Attraverso la dieta quindi noi riusciamo a fornire alla nostra pelle il necessario, gli diamo gli aiuti necessari per lasciarsi baciare dal sole e reagire bene, no? Viversi questa relazione che mi piace, no? Paragonare un po' una storia d'amore, bene, portando sulla pelle solo i segni positivi, perché lo sappiamo che il sole fa bene, oltre alla vitamina D ci aumenta il buon umore, insomma il sole è vita. Professoressa Romano, intanto che io do le informazioni sul traffico, non io personalmente ma insomma devo dare la linea, lei ci riesce poi a spiegare perché mangiando alcuni alimenti, dando la preferenza ad alcuni alimenti, rendiamo la nostra pelle, come possiamo dire, più resistente? Non mi piace tanto come aggettivo, lo troviamo subito dopo insieme a lei. A tra poco. essere e benessere. Banane, lampone, chi c'era con te? Chi c'era stasera? Sono il tuo amore, sei solo per me. Allora, dottoressa Romano. Eccoci, lasciamo ispirare anche dai lamponi, banane. Come no, perché come no? Anche perché si continua sempre a dire che bisogna mangiare le cose gialle, ma in effetti gli antiossidanti, cioè queste sostanze che catturano e debellano i radicali liberi, che non sono più una cosa astratta, ma sono appunto una realtà che è presente e ci danneggia in ogni situazione di aggressione, a cominciare appunto dai raggi solari. Cioè i raggi solari generano delle reazioni ossidative, quindi noi per poterli contrastare dobbiamo fare un overdose di antiossidanti. E molto si fa con la supplementazione artificiale, cioè i famosi integratori, però perché sì, non farlo a tavola? Brava. Quando poi possiamo assolutamente modulare la nostra dieta in funzione di quello che ci serve e quindi spaziare tantissimo, basta a dire soltanto carote, zucca, melone, albicocche, questo lo sappiamo, carità. Certo, ma però noi oggi disponiamo di una serie di, per esempio qualche novità è le spezie, zenzero, curcuma, addirittura lo zafferano che contiene una quantità di carotenoidi altissima, oppure il melograno contiene l'acido ellagico che è proprio mirato contro il danno degli ultravioletti B. Questo però ad esempio per due domande, zenzero, curcuma e zafferano, sono spezie, si prendono a pizzichi, funzionano anche in piccole dosi? Certo, funzionano proprio in piccole dosi, nel nostro libro noi abbiamo proprio sottolineato per ogni ricetta la quantità di ORAC, cioè gli ORAC sono l'acronimo per definire gli antiossidanti. Ogni ricetta apporta una quantità di antiossidanti, noi ne abbiamo bisogno almeno di 2000-2500 al giorno. Come si dice, come il pane, dottoressa Romano. Esatto. Eh? Però in questo periodo, quando siamo bombardati dalla luce solare, dobbiamo assumerne molto di più e con una dieta equilibrata, ricca e varia soprattutto, riusciamo a incamerarne addirittura 20.000 di ORAC al giorno. Dottoressa Romano, lei ha citato il melograno, adesso il melograno non c'è come frutto perché lo troviamo ai mercati d'inverno, possiamo usare il succo di melograno che si trova anche al supermercato? Per esempio il melograno lo trovo ancora in questi giorni e lo sgrano e lo aggiungo a delle insalatine miste, per esempio insieme a della granella di noccioline o di mandorle, quindi acido linoleico, omega 3, omega 6 e acido ellagico. Un'insalata del genere ci ha già consentito di assumere una quantità di antiossidanti notevole. Oltretutto noi, come diceva giustamente Umberto, dobbiamo favorire il vero fattore di protezione, cioè l'abbronzatura. Il nostro miglior filtro è la melanina. Grazie dottoressa Romano per essere stata con noi, le auguro una buonissima giornata, ci sentiamo presto e intanto ricordo il primo ascoltatore che invierà una mail a esserebenessere@radio24.it riceverà a casa a tavola non si invecchia, ricette invecchia con la E aperta, ricette e consigli per una pelle giovane e sana. Scusi, ma professore Borellini, quando uno è abbronzato, pensiamo a quest'estate, non ha più tanta voglia di mettere le creme perché dice beh tanto ormai sono abbronzato e ho la mia difesa, che cosa deve fare? Può utilizzare dei prodotti in cui l'SPF è più basso, ma possibilmente andare a guardare in etichetta se c'è il simbolino UVA. che indica la presenza in questi prodotti anche di filtri specifici per questi raggi più subdoli, che sono gli ultravioletti di tipo A, che sono quelli che provocano l'invecchiamento. Quindi, diciamo, uno può abbassare un po' la guardia chiaramente nei confronti della scottatura, giustamente dopo 20 giorni che sta al mare, però conviene sempre porre attenzione a questi raggi, diciamo, più invecchianti, e quindi verificare questo simbolino UVA proprio, diciamo incorniciato in una specie di ottagono, quadrottino, non ricordo, insomma. Però, professor Di Pietro, una persona che ha però numerosi nei, oltre che ai controlli regolari, può esporsi al sole adeguatamente protetto, e quale protezione deve prendere? Un ascoltatore mi scrive che ha tantissimi nei, che ha fatto già controllare sulla schiena, di grandi e piccole dimensioni, e se basta mettere la maglietta o se deve proprio evitare di prendere il sole. Professore. Dunque, io vorrei precisare due cose. Sono d'accordissimo col professor Remuzzi. Ecco, riprenderei una cosa che il professor Remuzzi qualche minuto fa ha detto, che è importantissima. Noi siamo animali diurni, quindi anch'io sono d'accordo che non dobbiamo preoccuparci poi così tanto di metterci sempre a tutti i costi una crema protettiva per il sole. La nostra pelle ha bisogno di raggi solari, quindi al di là delle esposizioni nei primi giorni in cui abbiamo una pelle pallida senza melanina, quando la melanina comincia a esserci, secondo me non è più necessario continuare a mettere delle creme. Io non sono d'accordo sulle creme solari quotidiane da mettere tutte le mattine quando si vive in città, ad esempio, perché il sole è importante, vitamina D, sistema immunitario e tutt'altro. Chi ha tanti nei non deve poi avere questa grande paura che gli venga un melanoma se non mette la crema solare tutti i giorni. L'importante è non ustionarsi, non scottarsi, e quando c'è la pelle chiara, allora sì, bisogna dar tempo all'organismo, alla pelle, di produrre la melanina, e in quei giorni in cui la pelle è chiara, è scoperta, non ha la melanina, aiutarla e difenderla. Poi basta, non bisogna preoccuparsi tanto, altrimenti si vive col terrore che se non mettiamo la crema si muore. Non è proprio così, anzi, se si continua a mettere una crema tutti i giorni, il giorno che non la mettiamo ci ustioniamo perché non siamo più allenati. Ecco, quindi questo, quindi, qui un po' per chiarire. Ecco, e poi per l'alimentazione ricordiamoci dei flavonoidi. I flavonoidi sono nei frutti di bosco. Adesso finalmente arrivano, perché sono importantissimi, ecco, perché non se ne è parlato prima, ma io sono un forte sostenitore dei flavonoidi, che sono nei comuni frutti di bosco, anche nel melograno ci sono, e sono importanti perché uno dei punti deboli della nostra pelle sono i vasi capillari, i vasi sanguigni, che sono quelli che danno l'eritema, che danno le scottature, danno tutto il resto, e indeboliscono insomma anche la cute. Allora, belli e sani, protetti, ci facciamo baciare dal sole con grande serenità. È un equilibrio che dobbiamo ricercare. Professor Di Pietro, grazie molte per essere stato con noi. Ricordo che il professor Di Pietro è uno dei nostri esperti del nostro Daily Lab, e quindi vi invito ad andare a leggere i suoi consigli. Professore, buona giornata. Buona giornata a tutti e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Parliamo di un decreto del Ministero della Salute che ha messo lo stop all'abbronzatura con lampade e lettini solari ai minori di 18 anni e le donne in gravidanza. Così anche il nostro paese si allinea agli altri europei, dove è già in vigore la norma. Ne parliamo in chiusura rapidamente col professor Paolo Ascerto, presidente della Fondazione Melanoma e direttore dell'Unità di Oncologia Medica e Terapie Innovative dell'Istituto Pascale di Napoli. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, finalmente, verrebbe da dire, no? Sicuramente il primo passo verso quella che è una cosa che da anni reclamavamo, ma è semplicemente il primo passo. Professore, vietati ai minori di anni 18, ma questo non vuol dire che a 18 anni un giorno non si rischia. Esattamente, ecco. come la patente. Ecco, esatto. A epatite della tintarella artificiale, che nonostante questo divieto non vogliono sentire ragioni, che cosa possiamo dire? Allora, diciamo quello che è stato evidenziato da uno studio importante, quello dell'Agenzia Internazionale sulla Ricerca sul Cancro, che in coloro che hanno abusato e comunque hanno avuto esposizioni a lampade abbronzanti al di sotto dei 35 anni, quindi al di sotto dei 35 anni, lo sottolineo, c'è un rischio aumentato di melanoma del 75%. Credo che sia una percentuale di riguardo e bisogna prendere in considerazione. Tant'è vero che gli ultravioletti sono stati inseriti nella classe 1 di carcinogeni, vale a dire come i raggi X. Ecco, quindi fate attenzione, si può ottenere un colore ambrato sulla pelle in tanti modi, basta un'esposizione equilibrata, ci sono anche gli autoabbronzanti con cui insieme al professor Borellini non abbiamo parlato, ma quelli di nuova generazione sono anche, producono un colorito meno giallognolo. La sto tirando in una cosa. Va bene, meno male che è finita allora la trasmissione, perché ho visto che sull'autoabbronzante il professor Borellini non è d'accordo. Andiamo di terra. È un altro magari. Argomento. È un altro argomento che affronteremo. Intanto, professora Scerto, la ringrazio per essere stato con noi. Le auguro una buonissima giornata. Grazie a voi che ci avete seguito. Appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Essere e benessere.